Mara, 4.070. Ehi, ma stai dicendo già, sei alzato a 1 e... sei alzato a 1.43 e l'altro sei alzato a 1.42. Adesso 4.070, ma buffone. No, io ho sbagliato io, alto. 1.40 e l'altro 1.70. Che sei? 47. Me ne sono accorto dopo che l'avevo promessa, accidenti. Sì, vabbè. Vuol dire che la sacchetta fatene di manco essere. O sarà di poca, di pochissima cosa. Hai visto che hanno abbasciato tutti, eh? Eh beh, se non si attrista nei chimi belli, c'è poco da fare. O t'attristi, o tu lo andivai. Allora già si può fare un pregio così. Si può fare sì. Un attimino, altro che altro cammino. Quasi niente di palle, non lo so. Ma la prima cosa che sento, tu comunque mi informo, io in capitaneria ci sono ogni giorno, quindi posso informarmi tranquillamente, le consegno la roba della capitaneria, quindi li conosco tutti. Ma informati, perché ho sentito questa cosa qua prima che... A te te vado a controllare il latte. Come qua. Di Antonio, guarda, cavolo, cavolo. Hanno da prendermi il latte che ho messo il fuoco. Ma ieri non c'eri anche? Certo che c'ero. Ho chiamato, ma forse era già tardi. È stato un pochettino più tardi. Ah, ecco, no, ho chiamato presto io. Probabilmente non c'eri per quello, 9:30 sono stato. Schiappa. E perché ieri un pochettino più tardi sono entrato, ma già c'ero però, hai capito? E chi c'era anche? Nessuno. Ah, e allora? Ma per questo sono arrivato alle 11, aspetto. Cosa tu? Sono arrivato alle 11, ho spento. Andate. Via, per carità, povera Italia. E provita, tu? Causo qui, ho provita. E dire pure a me. Sì, è una cosa mia. Dice a my friend, si ascolti Italy from Sardinia. Cosa mia, cazzo di ero, non vede niente, vado, cioè, ha preso la bocca Africa, ma poi no, non fa nulla. Allora, so cosa ti stai riferendo. Comunque già è meglio pure per una persona, per aprire la bocca a proposito e dire cazzate, è meglio che se ne sia mi sto riferendo a una persona, mi sto riferendo. Cazzo, ogni volta, cazzo, pure mi inventava qualcuna, cazzo. Mamma mia, allucinante. Ma tu non capisco a che cosa ti stia riferendo, sinceramente. Non riesco a percepire. Non so di che persona stai parlando. E mai così, però. Io sto parlando della terza persona, sto parlando. Cazzo, assolutamente, mi ha tanto un'inventata una, cazzo. Mi ha arrezzato. No, I could win in about now, say 10:30, 11 o'clock, shit. Sto già. Nella terza persona. Va. Assolutamente, che mi ha tanto un'inventata una, cazzo. Yeah, where do you work at? Ma la terza persona della mia sinistra. Allora. Mi ha dato sulle spalle una cazzata. Mamma mia, quanto mi faceva. A me mi faceva ridere, ma mi dava anche rabbia un po' di volte. Cazzo, insistendo. Mamma mia. Which road is it that they're winding? Tu già lo sai chi è che sta andando in insistenza. 115. Lo già. No. Io lo sai chi è che prende l'insistenza. Sto pensando, ma non riesco a... Non riesco a collegare. C'è che mi sdraio. Gabba. Uia. Molte volte a me mi faceva ridere, però molte volte mi dava anche rabbia, perché si metteva a insistere su cose che noi sapevamo. E tu dizia, no, è così, boom, va, mamma mia, cara. E boh, adesso non mi viene il capo che possa essere. Capo che sia oggi, lo studioso, cazzo. Studioso. E allora? Da maestro. Questo buon. Non riesco a capire che cacchio stai dicendo. imbarazzatemi, non dirlo, allora abbassa la voce. Il gran maestro. Sempre in garanzia, ma gli hanno rispedito. Ciao vari prima, e gli ho detto, guarda, se sanno, se sono una partita difettosa, mandamela di un'altra marca, anche se qualche ampere in meno non mi interessa, però che vada bene, perché ne ho preso più due a scheda e vanno benissimo. E niente, questo qui è proprio è riuscito male. Non lo so, ma a me me l'ha fatto circa un mesetto fa, me l'ha fatto questo switching che ho della Prosler, questo 30A, e poi non me l'ha più rifatto, ma forse perché lo stavo caricando e quindi anche per quello. Ma quello che hai tu cos'è, della Prosler? Sì, Proxel. Switching e Proxel. Quelli lì sono, quelli che c'è tecnocomunicazione, una vettura niente. L'ho comprato perché si teneva a averne uno un po' più grossetto, ma mi ha deluso proprio, per tre volte gli ho rispedito, per tre volte è sempre difettoso. E allora non è questione di partita di alimentatori di quella serie, ma evidentemente c'è qualche componente o qualcosa che va in tilt. Che avevo tre li ho cambiato, tre erano tutti con lo stesso difetto, anzi il primo che mi è arrivato come una attaccata ha fatto pum, e mi è partito. Figurati. Quasi quasi neanche senza provarlo, va. Vabbè, è un casotto, gira un po' le scatole quando è così. Vabbè. Antonio. Scappa, gira le scatole, ci mi ha mandato il messaggio, se lo capisce. Scappa, sa, non c'è problema. Oh, stasera ti sento magnificamente bene, non so che cosa hai fatto. Non ho fatto niente, sto usando sempre, diciamo, il cavallo di battaglia, sarebbe il Midland a base, diciamo, là. E niente, ogni tanto lo attacco, diciamo, per farlo scaldare. Tutto lì, a tu. Questa radio ti ascolta molto, molto più bene. Non so tu come ascolti me. Ma io, diciamo, riesco ad ascoltarti, diciamo, discretamente. Non proprio bene bene, ma comunque riesco, diciamo, a tirarti fuori. E il discorso tuo, diciamo, è il discorso della modulazione, capito? Lascia perdere il discorso del segnale, vabbè. Ma la modulazione, capito? Magari dovresti adattare qualche mic, non so, mic da base, giusto per spingere la modulazione. Io so se arrivo con una modulazione buonissima, ed è a porto torre, sicuramente con i chilometri che ci sono si disperde un po', perché già a me mi sento una bomba, mi sente. È così, adesso. Probabilmente avendo un'antenna più grossa sul tetto e cosa sarebbe arrivato bene, perché qua arriva benissimo. Sì, vabbè, voi siete anche vicini, dovete considerare questo, che voi siete anche vicini, e per le condizioni che sta uscendo, con l'antenna che sta uscendo, Antonio, diciamo che io qui, diciamo, riesco, diciamo, a tirarlo fuori, quindi nelle sue condizioni non è da poco, capito? Poi infatti Antonio si arrangia abbastanza bene, si fa sentire, meno male si fa sentire. Qua io lo sento molto forte anche di radio, anzi è una bella radio proprio. Oh, magari in effetti, come dice Antonio, col segnale magari più debole si disperde la voce anche, normale, no? Se avessi avuto un'antenna magari sul tetto di quelle grosse, tipo quella che abbiamo noi, sarebbe arrivato bene sia di segnale che di radio. scappa. Purtroppo non ce l'ho mai avuta quella fortuna di avere quello. Ma vedremo in futuro se ci riuscirò. E anche tu? Quando era a casa di mamma ho fatto le battaglie perché non me le voleva far mettere le antenne, se non andato di nascosto sopra la bottola, che poi tra l'altro c'era la bottola del palazzo, all'ultimo piano proprio di fronte alla mia porta, dovevi mettere la scala, poi ti dovevi tirare su con la forza delle braccia per arrampicarti sul tetto, e se sbagliavi lì erano cavoli, perché la soffitta lì era fatta in paglia. Io sono Marcello, se sbagli ti tronchiamo la mano di un gordo. Ma comunque io sono anche, cioè, secondo me in ogni tetto dovrebbero mettere in sicurezza e dovrebbero mettere le cose proprio per salire a metterti l'antenna, perché non può esistere che uno paghi le tasse, cioè, e poi per mettere l'antenna deve fare gli stati mortali. Siccome è un diritto del cittadino, io avrei messo in condizioni che sia case popolari, che sia comunale, che sia quello che sia, avrei messo in condizioni di avere un pezzo con tanto di scala e tutto, un pezzo per salire a mettersi l'antenna. Obbligatoriamente, se non è stato messo, fatta la richiesta in giro di pochi giorni. Cioè, mettere subito la cosa, solo che non gliene frega niente, non che devono la pagare tasse, basta. E anche la mia, la verità, è una passeggiata a mettere l'antenna, perché io ho la porta, apro la porta e sono già sul tetto, e poi hai visto com'è, no? C'è uno spazio enorme dove ti puoi muovere come vuoi, puoi passeggiarci sopra, non c'è pericolo di nulla. Capo, tu è sicuro, ma secondo me io avrei obbligato proprio a fare un qualcosa sopra, una piattaforma, qualcosa del genere. Obbligati, perché tu hai diritto di antenna, io perché mi devo chiamare il tecnico? Non ho capito. Io il tecnico lo chiamo, però lo voglio mettere anche in sicurezza. Cioè, se non, io proprio non ci posso salire, però lo voglio mettere anche in sicurezza. Io voglio che sul tetto ti facciano una cosa del genere. Puntato di scala e tutto. E se devo salire io a controllarla, ma devo controllare anch'io. È quello che non riesco a capire. Dovrebbero obbligarli proprio. Adesso affittano quelle macchine che hanno la gruetta, ci metti i punti, i piedini in terra, c'hanno la gruetta, sale su da su, col cestello e ti fai un travaglio, ti apri una fitta, va lì e ti fa il lavoro. Ma sapevo. Campo di gola. Non ho un'idea, comunque affittano tutte queste cose per le imprese, eccetera, eccetera. Te ne affittano un giorno. Il tempo di fare i buchi, mettersi del cemento di quello rapido, nelle staffe, e la bubbia si butta. Già lo so, non vuole montata, già lo so, non c'è problema. Poi se devo metto un'antenna non molto leggera, non metto un'antenna pesante e cose. L'importante è che sia sul tetto, quando è sul tetto c'è veramente la differenza, cioè. Allora sì che ci intende davvero. Beh, certo che è differente, allora ce l'hai sempre. Ok. Sì, Anto, diciamo che con un'antenna sul tetto, diciamo, potresti migliorare molto, non poco ma molto. E vabbè, dipende sempre uno, diciamo, dalle condizioni in cui si trova, non è detto che ci sono, c'è pro e contro. Ma io lo stesso da parte mia non ho problemi, capito? Su sul tetto ci posso passeggiare, ci posso... Gianni già l'ha visto, quindi non ci sono problemi, diciamo, da quel lato lì. E va bene. Ok, signori, mi approfitto, dai. Che devo portare il signorino, solita passeggiatina, così smaltiamo anche un po' di sostanze. Ok, ciao Gianni, alla prossima, ciao Antonio, ce la sentiamo tutte le prossimine. Ciao Lisa, ciao, buonanotte, buona passeggiata. Cappa, avanti, Antonio. Ciao Lisa, dai, ce la sentiamo. Cappa, buona passeggiata. Ok, Antonio. L'unica M. Io si chiama a casa oppure di Borrello di che si macchinari e via. Vabbè, lasciamo perdere, in futuro si vedrà. Già mi sento anche così. Sì, è vero. Capo, mi dispiace, è una cosa che ci ho avuto un po' sempre sullo stomaco, ma comunque non fa niente, l'importante è sentirsi. Cavagata. Se non è cave chi sa chi è, intanto non si vede a nulla. Capo. Ma chi si dà per un chiamando di guero? Sta facendo l'oggiando, come l'ho fatto io. Sta per una stata impaccata, vabbè. Sicuramente è stata piantata a mano. Gappa, gappa. Ioia, siamo a perdere. È mezza cartuccia che vuole rientrare adesso. Cartuccia, cara. Non ci mi vecchio, eh. Tutto ciò. C'è anche la Mantova 1. Che zona è? Lo sai chi è, dai. È quello amico mio, Luciano. Ah, ho capito. Aspetta un attimo che apro la porta, già. La stavo anche prendendo la Mantova, perché ho detto che se ne piace una piccola di antenne della Mantova non la piace più. Che affa. Vuoi montare un arringo? C'è il sbubo, c'è tutto quattro, l'ha mai piazzato. Guarda che tu che hai preso un messo buio. Ehi. Ah. Dice che ha detto che ho vinto via quando passava di sotto casa sua. E capo e capo. E va a piazza Ciro, e pare che fate a Don Azzoglia. Mi sono aperta. Si mette la mano va guai. Ma ha detto che ha avuto troppi casini, che sono andati a picchiarlo, hanno incolpato di cose che non erano vere, cose, quindi mi ha chiesto se c'era un po' di gente, ha detto che non ce l'ha più. Non è chiaro, no, non ce l'ho più visto, papà Otto. No. Chiaro. E gare che ricude, no, io. Io che siamo tutti amici. Ma una volta sono andato a casa sola, hanno incolpato che metteva la portante, invece dice che non era vero. Ma poi come lo conosco Luciano è tranquillo, non è di chi si rompe i bar. Cappa. Sì, era pure una rusa, quando deve andare a conchette le balle. E ci va con Pomponio. Ah. Ti vado sempre la cisa a trovare. Cappa. Oh, Iulia. Da venire a poco niente, forte, che sono periodo. Ehi, la manina. Lo sai Anto che sento una specie di canzone quando parli tu, una canzone lirica. Un raggio vita a te, magari Vito. No, una canzone lirica, quando tu schiacci la posata, ma grazie al televisore acceso. Io c'ho tutto spento qua. Siete come un televisore, forse la stessa cosa, il televisore di casa. C'è un televisore di casa tua, non un televisore di casa mia, no? No, perché rimbomba, non si sa senza le cuffie, boh. Ah, io veramente lo sento a te a casa tua. Non lo capivo, se entrava nelle cuffie si era a te, capito? schiaffa. Da me è tutto senti. Ho sentito parlare adesso. È a casa tua, non è qua. Perché io ho sentito quello primo lavorante. Se non primo lavorante non si sente nulla. Non lo so. Ma segui. Intengo televisione, intengo. Quando abbia l'abbordante tu. Bimbo, io forse non lo sento perché sono in cuffia. Cappa. Comunque, lo fa magari anche il microfono, perché quando sono così amplificati e cosa lo fa? Boh, non lo so, ma già. Già tira il segnale e poi lo senti in cuffia. Che qua si fa l'ascolto. Giamma, io non vai a e mi adesso quando tu hai parlato si sentiva la voce. La voce? La voce di un uomo. Ma qua non sta parlando nessuno, no già? O mi sto portando dietro la propaganda? E poi la si butta. Claro, però, che è le chat, come stanno? Chat? Le chat. Italiano, le chat sono i gatti. Ah, la gatta. E di la a voi già. A voi già. E c'è, si dà proprio questa faccetta. Che si dà proprio, nero. Nero nei gombetti di colore, così. No, è tranquillo, poverino. Ma è mannaggio. C'è i momenti suoi, un animale, non è che... C'è momenti suoi che corre, fa, però poi rimane buono. No, è bravissimo a correre. Quando si stressa dalla stanchezza, si addormenta. Allora, io cosa faccio? Gli aerei non travagliano, mangiano i viseri e si goccano. No. Quando da fare i saliti. No, e alla fine è anche una noia. Beh. Ma loro sono più fortunati gli animali che li fanno fuori, li vuoi andare in casoletta a mangiare. E vabbè che non sono animali, che te l'ho raccontato, no, quello che vedevo sempre. Ah, ma ne dovrà tassare la Budiuti. Due pezzi mi sembrava rimane chiusa. Sì, però doveva essere chiusa da lunedì, invece non ne hanno chiuso. L'hanno chiusa stasera. Siamo a due mesi. Sarrata. Sì, insomma, da Sant'Orso si può passare al ritorno. Che bene. Ma non mi piace. Mi pare fosse dentro 31 direttamente. Ma chissà. Troppi giri bisogna fare, bisogna passare dove c'è il trenino, latte dolce, e poi sbucarne come ho fatto stasera. Da Sant'Orso la passi lì e poi ne esci dal semaforo della Budivuti. Ciao, vai e dipende. Dico che è meglio così, vai a fare la temperatura. No, però l'andata è chiuso, capito? Solo al ritorno si può fare. Infatti quando stavano dicendo quello del rifornitore della Budivuti si è indignizzato perché sta perdendo tutti i clienti. Cioè, purtroppo la strada deve farla. E vabbè, muore di burone di manine, che adesso travagliente. Lo so. Perché allora non gli fa nulla. Io mi ero indirizzato comunque. E lavori vogliono fare, ma tu mi paghi per... Cioè, se lavori vogliono fare, se tu devi lavorare, devo lavorare anch'io. Mi dai... Cioè, tutte le giornate che ho perso, me le dai, a me mi conviene. Beh, poi quello c'è anche il gas e cose, Cappa, se mi serve la strada io non posso fare nulla. Se non lo so da che parte l'hanno chiusa, se l'hanno chiusa anche dall'altra parte, No, il pezzo di giù hanno chiuso. Quindi si può arrivare sin dove? Non lo so, penso fino a... Non ne ho idea, guarda già. Però il pezzo da venire qua, visto che ha perso. Però chi è stato 20 di questa travagliata? E la voi ha fatto la riserrata. scappa. No, vabbè, in quel posto verso dove c'è lui mi sa di no. E Antur, ma se le macchine non possono continuare ad andare avanti, mica ci vanno con i fornitori. Se non puoi continuare ad andare avanti, cosa andare in chi? Lo so, è sempre un casino però. Ma vabbè. L'altro rifornitore ha quasi finito di sistemarlo, però hanno fatto tutto in fretta e però non si vede concretezza. E per forza non lo possono aprire, si devono andare dalla strada, devono aspettare. Ecco, è vero. No, ma è dopo il rifornitore, la chiusura della strada, non si dice niente. No, è lì quel rifornitore nuovo che hanno fatto. Lì più giù, è proprio in quel tratto, mi sa. Ma è dopo. Cioè, la rete viene dopo. Il rifornitore si è già può aprire. E subito, è un mese dopo il rifornitore. E ma comunque adesso devono fare tutta la strada, lì piano piano chiudono tutto, Per forza. E tu garanti. E la stanno aspettando anche per queste cose. Però dopo che sarà tutto a posto, aprirà pure quello. Fate usare le cose da buona in nafta e benzina, che hanno da buio, ma ne sarà tolla. È un bel casino, quando fanno queste cose così a produttore, se lo corso, ci sono tutti quanti che stanno lamentando. Giabba, ce la prendano con la sovrintendenza delle mie palle. Hanno trovato qualche reperto. Allora, noi che ce lo devono impegnare con un comune, no? Se fosse per loro i lavori sarebbero già fatti, finiti e dimenticati. E ve ne impegnate anche se è miserabile. Se trovano un sassolino, ti fate bloccare i travagli. Allora, guarda, aveva tutto un colpo di bala a casa, aveva facciato tanto bene. A portatore dove scavi trovi i reperti romani e trovi da tutte le parti. Gabba, e loro rompono la balla all'altro. Lo so. Gabba, quindi non ce la devono prendere neanche col comune, se la prende con quella merda, con quelle merdacce della sovrintendenza. Mica che lì non rifate nemmeno. Non gli fa neanche piacere mia quelli che adesso non stanno lavorando, sono senza quel lavoro incompiuto. Cioè, non sai quanto gli rompo le palle a loro. Pure è un danno grave non lavorare lì. Cioè, no, non gli fa per niente per la ditta, sono perdite di soldi, insomma. A me. Io. Capito? Lo so. Para ditta, dici? Mi ha detto chi si guasta, cioè chi vi asciura a rendere la presa, è un danno per loro, sono soldi che bruciati così. Adesso ho visto che stanno coprendo anche con le ruspe. Chiappa, però quanto tempo è che li hanno lasciati perdere? È grave. Dobbiamo fare ancora tutto l'asfalto. Tutto con la roba, quei cartoni di Gosmo, di mattoni, di cose, devono rifare marciapiede, casino. Chiappa. Vuol dire che si sono decisi di chiudere. Pare così, ma è una rottura di palle, che è impressionante. Commercianti, per quelli che devono lavorare stessi, ma che se non rimasti di aziende mi sa così fermi, sono giornate di lavoro in meno e tutto quanto. I drumeni, diciamo che c'è un po' di sonno. Chiappa, ora ti posso drumini. Tu non sei stanco? No. E allora hai trovato un buco stasera. C'è un po' di stanchezza, ma non è che sia. Comunque, se ti deve riposare tu, cioè, ti lascio riposare, dai. Almeno ti droga un poco. Cappa. Vabbè, dai. Ti saluto, ti auguro buonanotte. Allora, tutto andando. Buona giornata per domani. Ciao a tutti gli amici che sono nascosti. Ciao già, dai, riposati un po', devi essere stanco, quindi. Ciao ciao, buonanotte, buonanotte a tutti gli amici di Bocco. Ciao ciao.